equivoco su cui spesso si gioca è questo. Si dice quel politico era vicino al mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti all'organizzazione mafiosa, però la magistratura non l'ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. E no, questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, può dire beh ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giudiziaria che mi consente di dire quest'uomo è mafioso. Però siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali o quello che sia, dovevano già avere le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi che non costituivano reato, ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono sensati, perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza, dire no, questo tizio non è stato mai condannato, quindi è un uomo onesto. Ma dimmi un poco, ma tu non ne conosci gente che è disonesta, ma non è stata mai condannata perché non ci sono le prove per condannarlo, però c'è il grosso sospetto che dovrebbe quantomeno indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia, a non soltanto essere onesti, ma apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti, anche se non sono più.